Se ti scegli un orizzonte che è solo il tuo verso quale puntare, la felicità è dietro l'angolo, la incontri da subito, non occorre arrivare là in fondo. Sono felice di annunciare che ho firmato il mio nuovo accordo con il Sydney Football Club. Vedere se obiettivo Formula 1 è raggiungibile o no, in prospettiva magari 2014, ma quello non, sinceramente non ci penso e non riesco a rispondere. Tutti convocati di Carlo Genta. E anche questo modo di stare in campo adesso con un attaccante centrale ci stia vedendo la squadra crescere. Secondo me siamo anche cresciuti da un punto di vista del fare la partita, del provare ad imporre un gioco, però io sono convinto che sia questa la strada su cui continuare a lavorare. Run boy run, this world is not meant for you. Run boy run, they're trying to catch you. Run boy run, running is a victory. Run boy run, beauty lies behind the hills. Bale sul cross di Sigurdsson porta il Tottenham in vantaggio anche di testa. Questo è un fenomeno e segna il gol dell'1-0. Male, un disastro. L'Inter si fa rubare un altro pallone sulla sua tre quarti. In precedenza Kovacic, stavolta Ranocchia. Dembélé, grande lavoro, dentro per Lennon. 4 in area di rigore del Tottenham, la palla è per Defoe. Handanovic, ma arriva Sigurdsson e fa 2-0 per il Tottenham. Male, un disastro. You'll be my boy, but for now it's time to run, it's time. L'angolo di Bale, ancora verso Vertonghen, 3-0, ogni cross è un pericolo, l'Inter dorme, il Tottenham no, 3-0. A San Siro servirà un miracolo, anche valutando la forza del Tottenham e la vostra condizione? Sì, sicuramente è un risultato che, diciamo, nel doppio confronto è ovviamente molto pesante. Run boy run, correvano solo quelli con la maglia bianca, quelli con l'altra maglietta invece sembravano dei paracarri. 800240024, Andrea D'Elia su Twitter, non c'è costanza dei risultati ma soprattutto nel gioco, fatto tutto a caso, direi delusi ma per lo più rassegnati. Allora interisti, delusi, rassegnati o incazzati, chiamateci all'800240024, Franco Piantelli d'autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Evaristo, grillo parlante nerazzurro, Evaristo Beccalossi, ciao. Buongiorno, ciao. Io ti farei fare il direttore sportivo dell'Inter, perché l'Inter ha bisogno di fantasia e sorriso. Ma correre anche un attimino di più che non sarebbe male, No. Visto la partita di ieri sera, anche insomma all'inizio è messo su una squadra quadrata, corta, però è durata 18 minuti. Gli altri, ma non tanto, perché nel gioco l'hanno preso in mano subito loro. Quando tu vai a affrontare una gara di questo tipo, vabbè, stare nella nostra metà campo, chiusi, stretti, però poi quando sei in possesso palla non devi aver paura, andarli a credere e ripartire in contropiede. Noi non siamo riusciti, cioè non siamo mai riusciti a fare, insomma, un po' il secondo tempo, due palle gol, però troppo poco per fare il risultato lì. Ma tu mi insegni che per fare contropiede bisogna anche correre. Sì, infatti credo che qualche giocatore mio abbia qualche problemino di corsa in questo momento. Non solo, è il gordo Cassano. Il limite di velocità non corriamo il rischio di prenderlo. No, gli autovelox no. No. Sai, ci sono molti entusiasti o illusi che dicono ma tutto sommato in classifica siamo a meno uno dal Milan. Poi ho dato un'occhiata alle ultime 10 partite, il Milan ne ha fatti 21, l'Inter 13. Il Milan sarebbe primo, l'Inter 14esima. Mi sembra un distacco molto provvisorio, Evaristo. No, quello, allora, la disamina iniziale è quella che insomma non deve mai, al di là del risultato, cambiare. Cioè, questa è una squadra che è stata rifatta, che poi dopo c'è da sostituire. Ieri parlavamo, no, degli assenti di Vito, Samuel, che sono giocatori straordinari, lo stesso Stankovic, però noi ci dobbiamo abituare a ringraziare questi grandissimi giocatori perché hanno fatto la storia dell'Inter. Bravo. Però bisogna che ci prepariamo a sostituire questi grandi campioni, perché bravo. Se facciamo l'errore di aspettarli vuol dire che secondo me non va bene, ci possono essere utili, però ci deve essere il giusto ricambio. Hai cambiato modulo, hai un allenatore giovane, insomma problemi ce ne sono stati. L'obiettivo iniziale era quello di lottare per ritornare in Champions League e sei lì a un punto, nonostante il percorso dell'ultima fase sicuramente non si è fatto benissimo, perché quando tu fai queste sconfitte è chiaro che devi analizzarle e devi cercare appunto di ripartire subito. Però ecco il dato di fatto che rispetto a altre squadre è già 2 o 3 anni che programmano gli inserimenti. Sì. Noi invece siamo ripartiti per voltare pagina, e questo mi sembra giusto, non bisogna dimenticarlo. Sì, Evaristo, però sai, voltare pagina secondo me ci vuole così il coraggio di chiudere con il passato. Fai un bel fagotto con l'anima argentina dell'Inter, con Stankovic, con Milito, con Cambiasso, ringrazi tutti come ha fatto il Milan e ciao. Ma ragionando così magari non è neanche giusto, perché io credo che ci sono dei giocatori che magari le 3 partite in una settimana non me ne fanno più, ma magari me ne fanno 1 o 2. Però se quando non ci sono loro, quelli che devono sostituire questi non li abbiamo, oppure quando giocano non riescono a fare quel salto che si pensava ci facessero fare, allora lì nascono i problemi. Sì, però devi dargli responsabilità, Evaristo, perché sì, ha sul gioco anche Seedorf, e Nesta erano in grado di giocare una partita a settimana ad altissimo livello, una partita ogni 15 giorni, però il Milan ha deciso di cambiare politica e ha rotto questo filo. Su questo sono d'accordissimo, perché anche il ragazzino 19 Kovac ieri sera, io c'è, anche se non stava giocando bene, è giovane, avanti con giovane, su quello la valutazione non cambia. C'è da tenere presente che però qualche valutazione l'altra l'abbiamo fatta su determinati giocatori, questo è un dato di fatto. Senti, direttore sportivo dell'Inter ideale, secondo me, ti chiedo ancora Due cose che sono legate. Quante botte hai visto negli spogliatoi dell'Inter in cui hai giocato tu? L'ho chiesto anche ieri a Tacchinardi a proposito della Juventus. E lui adesso cosa ti ha risposto? Come? Cosa ti ha risposto? Che ne ha viste tante, ecco. Tra Lippi e Vieri, che poi questa è uscita anni dopo. Tra Deschamps e Lippi, anche questa, perché poi si aprono gli archivi di Stato. Tu quante ne hai viste? Ma io non ne ho viste tantissime, grazie a Dio, perché sono stato abbastanza fortunato a avere uno spogliatoio, insomma, che erano altri tempi, insomma, su 16 a noi capitava di stare 14 in una camera a analizzare perché si era perso. Però ho visto anche qualche dirigente finire in un armadietto. E siccome non ci stava è stato anche piegato un attimino. Però la cosa più grave è che al di là, secondo me, può succedere nello spogliatoio momenti di tensione, sì, è che queste cose non dovrebbero uscire. Ma bravissimo, è quello che continuo a dire io. Questo mi fa incazzare. Poi durante il percorso lavorativo, cioè come pensare anche adesso, va bene, parliamo di Cassano, no? Cassano non è che è arrivato da noi, è diventato improvvisamente un angioletto o noi siamo più bravi a gestirlo, cioè nel suo percorso tutte le squadre che è andato qualche problema l'ha avuto, però bisogna saperlo gestire, la cosa doveva rimanere lì e io mi sono arrabbiato con chi ha fatto uscire questa cosa, che è più grave. Che chi è non ce lo dici, naturalmente. Esatto. Che chi è non ce lo dici, naturalmente. Non c'ero, Vabbè, sbrigatela così, Evaristo, bravo. Sbrigatela così, so che lo sai, dai, so che lo sai. No, ma sai, lì poi dopo a volte, cioè, per esempio noi della generazione c'erano delle cose che si sapevano, poi appena smesso, guarda caso, qualcuno è diventato subito dirigente dell'Inter. Ma va, davvero? Hai fatto 1+1 e detto ecco da... Ma davvero? Vabbè, però sono cose di 20 anni fa. Vabbè, prescrizione. Tanto in Italia si prescrive tutto. Grazie, Evaristo. Grazie a voi, ciao, buon pomeriggio. Ciao, sei sempre numero 1. Evaristo De Calossi, strade. Immaginavamo questa spensieratezza tattica dell'Inter, dell'allenatore dell'Inter. tutti convocati. Cari miei amici convocati, 800 24 00 24, Luciano da Belluno e Giulio da Milano. Luciano, buongiorno. Buongiorno Carlo, complimenti per la trasmissione. Grazie. Sono un interista incazzatissimo. Oh, viva la sincerità. Allora, per me intanto ti faccio ridere, la talpa è branca. La talpa è branca, va bene. Sì, c'è un toto talpa, dai. Di pallone non capisce niente, e averne di Oriali e di Beccarossi all'Inter tutta la vita. Bella lì. Sì. Vorrei capire una cosa, sono super incazzato perché vedo Milan e Juve che giustamente puntano sui giovani italiani, no? Sì. Quando noi avevamo gente come Faraoni, Poli, Livaia, Santon, che dove cazzo sono finiti saprà solo Dio, e ci prendiamo il Pereira, il Jonathan e la Madonna che viene qua dall'Albania e chissà. Vabbè. Società, Luciano, non mi sbroccare. Dov'è la società? No, non mi sbroccare, no, tu dimmi perché va via Livai e viene Brocchi, tu dimmi perché Poli, che l'anno scorso ce l'avevate, va via e viene Gargano. Queste sono mosse che io fatico a comprendere, non so a quali logiche appartengano, comunque sono abbastanza in linea con il tuo pensiero, a salvi bip, insomma. Grazie Luciano. Giulio, Milano. Buongiorno. Buongiorno. Trasmissione. Grazie. Due cosette, io sono... Posso dire una cosa, mi permette? Perché c'è un ascoltatore che prima mi ha scritto, adesso lo vado a pescare tra i mille messaggi che mi sono già arrivati, che io sarei contento. Allora, questo non lo ammetterà, ma un po' è contento ieri sera a Londra, per quanto è successo ieri sera a Londra, vero, scrive Fabio, falsissimo, perché non sono contento per nulla, perché avrei preferito vedere un'altra Inter e soprattutto un'altra squadra italiana che pianta la bandiera in Europa, e questo ve lo giuro. Dica, Giulio. Allora, tornando al discorso di prima dell'Inter di ieri sera, siamo veramente caduti in basso. Io la maggior parte delle colpe le do al presidente, perché non so, magari per il lavoro che fa, con i fumi del gasolio si è rovinato il cervello. Io non so se veramente uno può fare 15.000 chilometri per andare a comprare Pereira, Jonathan, non faccio altri nomi, Gargano, compagnia bella. Questi qua, se vanno a fare i secondini a San Vittore, in 5 minuti fanno festa tutti quanti. Vedere l'Inter che giocava con Eto'o, io facevo l'abbonamento per vedere Eto'o, mi hanno venduto Eto'o. Allora ho fatto l'abbonamento per vedere Sneijder, mi hanno venduto Sneijder. Allora dovremmo fare come fanno Mediaset, soddisfatto o rimborsato. Siccome che questa pratica qua non esiste, io vedere, tra virgolette, questi giocatori qua che sono veramente schifosi, ma nel vero senso della parola, 38 anni che sono abbonato, ho fatto 7 trapianti di fegato per questa benamata Inter, e sono 5 anni che per tutto sommato ho goduto nell'era Mourinho, che faceva dal magazziniere, raccattapalle, faceva tutto lui, perché nella società nerazzurra veramente nessuno capisce di calcio. Io posso capire Branca, capisco Ausilio, perché dice questi sono i soldi, dobbiamo fare con questi soldi qua. Però l'avallo dal presidente, io mi ricordo anche il signor Oxon, bisogna dare via Roberto Carlos, perché la sua fascia è un'autostrada per andare a comprare chi? Centofanti e poi Pistone. Ma l'avallo lo dà anche il signor Moratti, per cui sarebbe più logico dire io non sono all'altezza come mio padre, che era attorniato da gente competente, lo era il signor Allodi. Punto, basta, si faccia da parte. Ma si faccia da parte, il presidente ama giocare con il suo giocattolo, la forza di un presidente è quello di affidarsi a collaboratori all'altezza. Evidentemente qualche mossa, per usare un eufemismo, è stata sbagliata, perché quest'Inter, come lei molto in modo molto duro diceva, è fatta da giocatori non all'altezza di una squadra che vuole competere in Italia e in Europa, ma questo mi sembra abbastanza evidente. Grazie Giulio. Coach. Well, now they gave him his orders in Monroe, Virginia. They said, Steve, you're way behind time. This is not 38, this is old 97. Put her in the dispenser on time. Ciao Coach Dan Peterson, io sono qui nella bufera degli interisti. Non sapevo il punteggio fino a 2 secondi fa, non avevo seguito ieri sera. 3-0, ma poteva essere peggio. Sì, proprio è un peccato per loro, ovviamente, cioè, proprio avevano tutte le carte in mano da giocare, comunque tanto... chiudo è un diplomatico no comment. Okay? No, fai benissimo. Intanto Milano 2-0 su Siena, doppio vantaggio. Sì. I messaggi continuano per l'Armani Jeans nei confronti della Montepaschi, ma intanto Varese e Sassari hanno in mano il fattore campo per i playoff. Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Comunque per Milano è stata una vittoria importante, ovviamente domenica sono 2-0 con Siena, anche se Siena davanti un paio di punti in classifica, però Milano con questo da segni veramente di saper giocare e vincere la partita importante. Poi si può dire Siena stanca proprio dalla Eurolega, le altre cose qui, però due punti sono sempre due punti, okay? Mm. Ovviamente adesso Milano va a Venezia, una partita veramente cardine per loro per la stagione, forse la partita chiude la giornata. Noi di Sport Italia siamo a Cremona, per Cremona Cantù, però questa partita c'è, cioè Milano che ha dimostrato di saper vincere in trasferta, Venezia che gioca in casa, Milano che viene una bella vittoria, Siena che a Roma che non è facile. No, no, esattamente. E poi parlando sempre di Venezia che ha una bellissima squadra, ha già sbancato Milano, però è chiaro che vengono una sconfitta molto pesante a Montegranaro, quindi saranno una bella ferita in poche parole, quindi una partita estremamente interessante. Coach, c'è chi mi scrive: Luca, sono preoccupato per Cantù, che ne pensate voi? Ma forse non ha torto Luca a essere preoccupato per Cantù. Guarda, Cantù sta quando tu attraverso il periodo via Marcus Vili dentro Mancini, c'è sempre un attimo, generalmente 3 settimane più o meno di o anche 4 di adeguamento a uno, il giocatore perso, due, il giocatore arrivato. Però io su Cantù io non nutro nessun dubbio, per me grande allenatore in trinchieri, una società molto, molto bella diritta da Bruno Arrigoni, giocatore veramente che sanno vincere, quelli emersi come Aradori quest'anno, quindi magari come tutte le squadre qualche punto debole ce l'ha, ma veramente il carattere e la disciplina non mancano a loro assolutamente. C'è chi mi scrive: dove si compra il disco del coach? Ti conviene inciderne uno, sai? No, sul serio, fallo. Ah sì, va bene, ok. Incido, anche i miei managers vogliono che io faccia una cosa così. Adesso. Fallo, coach, ma fallo. Adesso dico questo pomeriggio a loro che devo incidere un disco. È già comprato, cioè, dove si compra il disco del coach? Mi scrivono. Lo presentiamo qui alla radio insieme. Ci provo. Ci penso assolutamente, te lo prometto. Senti, Siena arriva, per Siena il momento più difficile si avvicina, quello del buco della serratura, tra Eurolega e campionato. Tutti gli anni passa da questo buco della serratura. Sì, loro anche stasera, ovviamente la partita è estremamente difficile per loro. Kimchi, manca Hackett, manca Ress, Kimchi vorrà chiudere alcuni conti, rivendicare la partita giocata a Siena, quindi è una partita molto problematica per Siena, ma ho imparato da loro di non sottovalutare loro mai. Virtus Bologna sull'orlo della retrocessione, licenzia Finelli e prende Becchi, normale? Guarda, questo è normale, anche il nostro Guido Bagatas, con tutto rispetto per Alex Finelli, che per me è un signor allenatore, mi piace molto come lui è come persona, come allena eccetera, ma come dice Guido, non parlando della persona, della bravura dell'allenatore, forse la società, per motivi societari, doveva farlo qualche settimana fa. Quindi vediamo se la scossa arriverà o meno. Però è fatale per un coach. Noi allenatori siamo schiavi di risultati, assolutamente. Certo. Coach, un'ultima cosa. Io sono malizioso e curioso. Quanti litigi in spogliatoio ti è capitato di vedere nelle tue squadre? Litigi in spogliatoio? No, mai. Come no? Dai, di la verità. Mai. Uno sul campo fra Silvestre e Kuplak, che si sono date veramente dei pugni, ma litigi in spogliatoio no? No, non escono ancora, cioè sono ancora embargati, c'è ancora la segretezza degli archivi. No. Questo posso dire assolutamente no, quindi quello fra Silvestre e Cooper che è successo, cioè, poi magari una volta a Bologna Dresco l'ha preso buon amico per il collo, però è cosa che finisce in 2 secondi, ma litigi assolutamente no. Cose normali da uomini può di sport. Può anche succedere perché si sfogano così. Ma certo. Anzi, con Kubek e Sylvester mi sono arrabbiato. Io dovevo drammatizzare la cosa, quindi è stato il colpo mio probabilmente nella gestione della situazione. Grazie coach, ti abbraccio. Ciao, mi raccomando il disco, coach. Ok, ciao. Grazie coach Dan Peterson, ma poi torniamo. 800 24 00 24 è il numero verde. E ha ragione Maurizio da Milano, non ho ancora speso una parola sulla Lazio. Chiaro, l'Inter è l'argomento del giorno, è una squadra monitorata sotto stretta sorveglianza, ma io mi alzo in piedi e mi tolgo il metaforico cappello che qui non ho nei confronti della Lazio, perché ieri ha fatto l'ennesima impresa d'Europa. Ma poi soprattutto quello che mi fa felice è che la Lazio sta affrontando nel modo migliore e più serio una competizione come l'Europa League, cosa che io non vedevo da mille anni da parte di una squadra italiana. Quindi grandissima Lazio e grandissimo Petkovic, che ieri è andato a fare un altro risultatone in trasferta vincendo 2-0 a Stoccarda, ha messo in banca la qualificazione ed è riuscito perfino a fare turnover. Vuol dire che la Lazio è una squadra vera. Borsa. Se uno mantiene sempre lo stesso profilo, il famoso passo da montagna, non deve né correre né andare piano, sempre lo stesso passo. Tutti convocati. Dov'è la società? Aiutami te, Carlo. Sempre e ogni giorno tutti convocati su ogni argomento. 800 24 00 24. Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, sottoscritto Carlo Genta qui con voi a rispondervi, a chiacchierare con voi. Non accetto questa. Ugo da Latina: sei penoso anche con Dan, volevi prendere per il culo l'Inter ma ti è andata male. No, io sono sinceramente forse un po' maliziosamente interessato alle dinamiche degli spogliatoi, dato che è un argomento di cui si può parlare, di cui è d'attualità parlare, visto il caso Cassano. Sono sinceramente interessato a capire che cosa succede negli spogliatoi dello sport. Forse sarò un po' guardone, forse sì, però sapete, sono argomenti che mi interessano, quelle dinamiche di gruppo e il modo in cui vengono gestite, quindi non c'è nessuno da prendere per il culo. Giancarlo Lugano, buongiorno. Genta, buongiorno, grazie della convocazione. Ma grazie a lei, dalla Svizzera. Allora, intanto interrompo Radio Inter oggi pomeriggio, meno male che c'era il coach. Bene, bene. Volevo parlare di basket con lei, farle due domande veloci veloci. Sì. La prima volevo chiederle, secondo lei l'esperienza di Bargnani in NBA è finita in tutto o no, solo presso Toronto? Magari cambiando trova nuovi stimoli. Deve cambiare assolutamente società, la prosecuzione di questa avventura a Toronto non ha più senso, quindi deve certamente entrerà nel trade di mercato. Speriamo vada a finire in una squadra vincente, magari avrà meno minuti, meno tiri, meno canestri, però potrà misurarsi con un NBA di un altro livello. Grazie della risposta. Non concordo con lei, ma passo alla seconda. Perché? Secondo lei è finita? Secondo me è finita. Doveva fare il salto di qualità un paio d'anni fa o l'anno scorso, ma non... Beh, l'anno scorso di fatto ha giocato da stella in una squadra perdente. Quest'anno gli infortuni lo hanno messo ai margini di una squadra perdente. Dunque è finita qui, però io credo che abbia ancora età e mezzi compresi, credo che abbia ancora possa essere ancora un giocatore da NBA, magari tattico, magari diverso da quello che abbiamo visto finora, però può essere ancora un giocatore da NBA. Vabbè, vedremo. Poi, tra un anno. Domanda un numero anno. Due. Sì. Io sono tifoso dell'Armani. Quest'anno non sono particolarmente soddisfatto. Comunque ci stiamo riprendendo, ma non era iniziata così. Allora, ci sono stati tanti colpevoli, tante analisi, eccetera, ma leggendo, sentendo, volevo sentire il suo commento, il ruolo di Livio Prolli, secondo me, non viene analizzato abbastanza. Molti errori gestionali secondo me sono riconducibili a lui, ma non ho mai letto analisi a riguardo, eccetera, non per trovare colpevoli, ma per trovare dei rimedi. Sì, è anche vero Giancarlo, che è stato preso Scariolo per fare quello che ha fatto Mourinho all'Inter, cioè per scegliere i giocatori e fare l'allenatore, quindi con pieni poteri. Diversi errori sono stati commessi anche dallo stesso Scariolo. L'Armani è una squadra che ha dovuto cambiare pelle strada facendo, perché quella originaria e molto costosa non andava bene. Adesso mi sembra una squadra in crescita, lo dicono i risultati, quella lunga striscia di vittorie in trasferta interrotta a Reggio Emilia, questa vittoria contro Siena, insomma, credo che potrà parlare l'Armani fino alla fine della stagione, poi con quali esiti non lo so, dico la verità, perché no, mi sembra una squadra ancora incompiuta. Raffaele, provincia di Napoli, 800 24 00 24. Pronto, buongiorno. La ringrazio di avermi convocato. Senta, volevo sapere, ritorno all'argomento sulla partita di ieri sera dell'Inter. Sì. Ma non pensa che io ho visto la partita, i gol che ha subito, ma a parte il fatto che a me queste faccioni non è che piaccia moltissimo, è un po' presuntuoso, non pensa che abbia dato un alibi ai giocatori dell'Inter dicendo che comunque il campionato è la cosa più importante e quindi i giocatori hanno affrontato questa partita, diciamo, non tanto, con tantissimo impegno. Poi volevo chiederle il fatto del caso Cassano, quanto tempo durerà l'Inter e verrà mandato via. Poi le chiedo scusa, una seconda domanda, io sono un tifoso della Roma, secondo lei confermerebbe questo allenatore Andrea Zoli anche per l'anno prossimo o ci vuole un tecnico diciamo tipo Ancelotti per la Roma? Beh, la ringrazio. Grazie a lei Raffaele, domande anche molto complicate. Forse Stramaccione ha fornito un alibi, però ieri sera ha messo in campo l'unica squadra che aveva, la migliore salvo Palacio all'inizio. Poi possiamo discutere sulla collocazione dei giocatori, perché Alvaro Pereira così avanzato, secondo me era abbastanza una follia. Però insomma, l'Inter ha affrontato questa Coppa ed è arrivata fin qui giocando anche come la Lazio con grande serietà, valeva la pena, se ne avesse avuta di tentare di superare questo ostacolo Tottenham molto alto. Evidentemente l'Inter non ne ha, soprattutto sul piano della corsa. Catania può ribaltare la partita, ma quando giochi contro una squadra che corre in quella maniera, che ha quel passo, quella velocità, tutti i limiti anche fisici di questi Inter vengono impietosamente fuori. A proposito di Lazio, io voglio rendere ulteriormente onore alla Lazio e al suo allenatore Petkovic per quanto fatto ieri a Stoccarda, per quanto fatto lungo il cammino meraviglioso della Lazio in Europa. Petkovic. Il momento è sicuramente molto importante, ma è importante già contro Fiorentina dare un'ulteriore autostima alla nostra squadra. Allora vincere, convincere, e prestazioni devono essere almeno su questo livello, perché siamo capaci, dobbiamo tirarci insieme anche in campionato le ultime 11 partite, perché abbiamo tutte le strade aperte e noi vogliamo ottenere il massimo. Questo era Petkovic. Se la Juventus è imbattuta nelle ultime 18 partite europee, la Lazio in questa stagione 11 partite in Europa League, mai perso, altro piccolo grande record. Adesso, per alzare le nostre bandiere del calcio sull'Europa, aspettiamo solo il Milan e poi sarebbe bello commentare un'Europa anarchica in cui le stelle non ti portano più da nessuna parte e in cui vale di più essere squadra, essere squadra da battaglia, essere squadra da colletti blu, da operai specializzati, eccetera eccetera. Però aspettiamo una settimana, dai, fino a martedì sera, poi mercoledì ne parliamo. Enzo Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Ciao Vegenta. Dunque, io invece, riaccendo Radio Inter, come la chiamata chi mi ha preceduto, Anche se Radio Inter. Sicuro, Radio Inter. Anche se sono più sicuro che sia più Radio Milan, comunque. Ma non è né Radio né Inter né Radio Milan, Enzo. Sono gli argomenti del giorno che ci portano a fare certe discussioni, e siete anche voi che portate a fare certe discussioni. L'ascoltatore prima non ha parlato né di Radio Inter né di Radio Milan, ha semplicemente detto: interrompi discorsi calcistici, come è obbligatorio fare in questa trasmissione, in cui vale ogni commento e vale ogni considerazione su qualunque sport. Ha detto: non voglio parlare di Inter, non voglio parlare di basket. Quindi non è né Radio Inter né Radio Milan, Enzo. Dica. A parte questa premessa, va bene, ognuno si tiene le sue idee. Comunque, io vedo l'Inter tutte le domeniche. E praticamente quello che ho dedotto da quello che vedo praticamente sempre è che l'Inter non ha gioco. Il principale colpevole per me è Stramaccioni, che non ha assolutamente idea di cosa sia. Prima di tutto, di che uomini ha in mano, perché ogni domenica cambia formazione, cambia disposizione a prescindere dagli infortuni, ma si può prescindere poco dagli infortuni, perché gliene sono rimasti davvero pochissimi di giocatori abili e arruolabili. Piuttosto mi sembra che quei pochi abili e arruolabili siano in una preoccupante flessione di forma atletica, quindi è questo. Poi sa Enzo, chi si può mettere in campo in questo momento? Facci i conti dei disponibili. Beh certo, visto la campagna acquisti, voglio dire, i vari Gargano e compagnia bella saranno arrivati perché qualcuno li aveva anche raccomandati all'interno della squadra, voglio dire, sono mica argentini per caso. Gargano non è argentino, sudamericano ma uruguaiano, però vale lo stesso discorso, insomma ci sono state delle mosse che anch'io faccio fatica a capire. Cioè, una volta che torniamo indietro ai poli, che senso ha poi andare su Gargano? L'Inter ha avuto anche la sua bella dose di sfiga, perché gli infortuni gravi a Samuel e a Milito non erano preventivabili. Poi il resto, io continuo ad essere convinto che serva un taglio netto con il passato per ripartire da basi diverse e non così ibride. Meno male che era Radio Inter, Enzo da Bergamo, così ci ha dato una bella mano, no? Cioè, dice Radio Inter, parla di Inter, e vabbè, io parlo di quello che volete voi. Adesso parlo di, non io, ma i colleghi, parliamo di traffico. Io la maggior parte delle colpe le do al presidente, magari per il lavoro che fa, con i fumi del gasolio si è rovinato il cervello. Tutti convocati. Torniamo con Walter da Udine. Pronto, buongiorno. Buongiorno Walter. Ecco, volevo un po' riprendere il discorso che ha fatto prima il coach riguardo Bologna. Sì. Bologna, non ci sono solo gli interisti incazzati, anche i virtusini, devo dire che sono abbastanza nervosi. Diciamo così, dai. Secondo lei Sabatini riuscirà a rifare un altro miracolo oppure ci dobbiamo aspettare? No, aspetti, quale miracolo? Beh, rimanere. A rimanere? Rimanere su. A rimanere in Serie A? Perché a questo punto la vedo molto molto molto dura, no, o perlomeno riuscire a ritornare come si era una volta. No, Walter, lei mi sembra eccessivamente pessimista, perché è vero che la Virtus, peraltro partita discretamente all'inizio di questa stagione, è vero che la Virtus è precipitata in un vortice di sconfitte che l'hanno portata ai margini della zona retrocessione, ma è anche vero che la Virtus ha qualità che quelle che combattono per la retrocessione non hanno. Penso che in situazioni come queste, io sono sempre contrario al cambio di allenatore, però probabilmente per invertire la rotta in questo caso era forse necessario. Non conosco sufficientemente bene le dinamiche e torno al discorso di quello spogliatoio e di quel gruppo, però troppi risultati negativi, credo che la Virtus possa restare dov'è, cioè in Serie A. E poi vediamo, poi a fine stagione si fa come al solito la conta delle società morte, di quelle ferite gravi, di quelle morte da tempo, eccetera eccetera eccetera, perché se c'è una cosa che manca nella nostra pallacanestro, forse nel nostro sport, ma nella pallacanestro di sicuro, è la certezza del diritto e del rispetto delle leggi. Prende il tiro da tre! Lo mette! Colpo da giocatore di biliardo al tabellone! Più due match! La partita si accende, la serie decolla! Il palleggio per Michael Jordan! E ha spazio! Tutti lo aspettano! Può essere l'ultima azione della sua carriera NBA! Michael! Jeffrey Jordan! Paolo D'Ancona, tra i vari insulti, questo non me l'aveva ancora mandato, intanto lo ringrazio. Sei un fabbro messo a fare l'orefice. Preferisco fare il fabbro piuttosto che l'orefice. Ringrazio Paolo e ringrazio anche Flavio Tranquillo. Ciao Flavio. Buongiorno. Buongiorno. Fabbro o orefice che tu sia. Ma cosa vuoi che sia? Senti, ha ragione Paolo D'Ancona che mi insulta costantemente, facendomi anche grande compagnia peraltro. Denver 7 in fila, Miami 16 in fila, vincono i Lakers, si vede che chi corre per qualcosa di importante, e comincio a pensare che Denver voglia correre per qualcosa di importante, in questo momento comincia a fiutare l'area dei playoff. Sicuramente, sicuramente corre per qualcosa di importante. Questo naturalmente non significa che se non vinceranno il titolo sarà una delusione o che siano la squadra più accreditata per vincere il titolo, perché non lo sono da nessun punto di vista. Però in questo momento Denver è una squadra che comincia a prendere veramente un certo tipo di colore, parlando per immagini, ed è il colore delle facce di Danilo Gallinari e di Ty Lawson. Sono i due giocatori su cui hanno scommesso, sono i due giocatori su cui hanno avuto dei dubbi nei primi tre mesi, e adesso i dubbi li stanno facendo venire agli avversari. E se loro giocano con questa continuità, e poi è complicato, il sistema di Denver è molto complicato per le difese avversarie. Quindi può anche essere una strada molto lunga. Cominciamo a pensare, a sognare, forse a illuderci un pochino, che possa essere una strada molto lunga. Beh, è una strada lunga, nel senso che è una squadra che non ha le certezze di Miami e Oklahoma City, per fare due fotografie. Non ha il vissuto di Miami e Oklahoma City e non ha le punte di Miami e Oklahoma City. I primi uno o due giocatori della rotazione sono inferiori a queste squadre. Se però ne facciamo una questione di 8-9 giocatori e di un sistema diverso dagli altri, e allora i Nuggets su 9 giocatori sono sicuramente meglio di Miami, altrettanto sicuramente meglio di Oklahoma City. Quale delle due cose prevale? Secondo me la prima, in una logica di playoff, però la seconda ha la sua importanza. Prima un ascoltatore mi ha chiesto, e un altro su Twitter lo richiede, l'avventura di Bargnani nell'NBA potrebbe essere finita o ha bisogno semplicemente di un altro contesto? Ma intanto ci serve il piccolissimo fatto di 2 anni di contratto a 10 milioni di dollari che tendono a farmi pensare che finita non è l'aggettivo che userei. Poi non si capisce perché dovrebbe essere finita. Quella che è finita è l'avventura a Toronto per quella che oggi è Toronto. Oggi a Toronto Bargnani è ritenuto un giocatore di cui si può fare a meno, e Bargnani ritiene che la sua avventura a Toronto non abbia margini di miglioramento o di recupero. Oggi, per come Bargnani oggi, per come sono i Raptors oggi, eccetera, eccetera. Nell'NBA ci sono tante situazioni, mi ricordo un po' di tempo fa Sean Elliott o Iverson, è la cosa più chiara. Iverson fu ceduto da Philadelphia, poi tornò indietro per una serie di questioni procedurali e l'anno dopo da solo, ma letteralmente da solo, portò Philadelphia in finale e all'1-0 in finale, prima di accorgersi che stava facendo una cosa impossibile, cioè era Davide che stava atterrando Golia da solo. E perdere 4-1 la finale. Però era lo stesso giocatore su cui avevano abbandonato completamente ogni possibilità. Non significa che allora Bargnani porterà in finale l'anno prossimo i Raptors, ma che guarderà l'NBA con l'idea, ecco, è finita l'avventura col Barcellona o col Milan o con l'Inter. È sbagliato. Ovviamente i nostri ascoltatori non sono contenti se non diamo una pennellata di oro e viola. Perché? Perché sono fatti così, Flavio. Ma sai, i Lakers penso siano facilmente riassumibili dalla partita di New Orleans. Vanno sotto di 25, Poi vincono la partita. Vanno sotto di 25 non senza giocare, senza presentarsi a giocare, e poi vincono la partita con una furibonda rimonta nel finale. È già successo con Charlotte, è già successo altre 4-5 volte. È una squadra che non è assolutamente prevedibile, non sai all'interno della stessa partita, all'interno della stessa azione che cosa farà, non sanno loro che cosa faranno, perché non c'è la possibilità di contemperare le esigenze, le propensioni, le capacità e i difetti di tutti quei giocatori in un modello. Bisogna che finisca la stagione, e come finirà non lo sa nessuno. Io penso che entreranno forse anche di straforo, ma se entrano di straforo così non c'è una chance al mondo che possano fare strada nei playoff, e poi le decisioni importanti dovranno prendere d'estate. Sì, resta il fatto che segnale di crescita zero, cioè si va sull'onda della follia del talento dell'estero, della serata, di chi ha voglia di giocare, di chi non ne ha voglia, di chi ha voglia di passare la palla a quell'altro. Zero certezze e anche zero crescita come squadra per loro. Esatto, ma considerando però che la quantità di talento è incredibile, assolutamente paradosso è questo. E il paradosso è questo, che in ogni partita, anche contro le squadre buone, ci sono comunque 5 minuti in cui, anche al di là della loro volontà, comunque si trovano dentro la partita. Chiaro che poi contro New Orleans, che con tutto il rispetto per noi non è una squadra buona, puoi fare anche 20-0, però sono sia quelli del 20-0 che quelli del meno 25, non è che sono o uno o l'altro. Bravo, sono tutti e due e tutto quello che c'è in mezzo. Grazie Flavio. A voi. Come sempre, grazie a Flavio Tranquillo. E noi chiudiamo con ascoltatori, oggi un bel carico, tutti qui per parlare di sport. 800 24 00 24. Angelo Milano, buongiorno. Buongiorno, grazie di essere stato convocato. Ma siete sempre convocati, me lo fate ripetere, sempre. Ti ringrazio, io volevo aspettare la lancia a favore tuo, nel senso che inutile che noi interisti ce la prendiamo con te dicendo con che me. Tu sei anti-interista o roba del genere. Ma no, interista... ma Angelo, ma non me ne importa niente, giuro. No, no, ma aspetta, scusami se ti interrompo. Sì. Gli interisti devono capire una cosa, che il Milan e la Juventus sono società private, noi siamo... una società a conduzione statale dove tutti sbagliano e nessuno paga. Vedi cioè, Branca come modello, come modello. Vedi Branca che ha preso Forlan non sapendo che non poteva giocare in Coppa dei Campioni. Qualsiasi altra società seria l'avrebbero cacciato fuori a calci nel culo, scusami l'espressione. Noi siamo la barca dei babbioni. È inutile che noi ci incazziamo in interista. Abbiamo vinto solo con Mourinho perché ha preso in mano tutta la situazione. Sì. E non ha fatto contare tutti gli altri. Quindi noi siamo dalla dittatura all'Unione Sovietica del calcio, insomma, è così? Noi abbiamo mandato via Oriani che ne capiva per tenere un rimbambito come Branca. E dalle mie parti si dice poi, scusami, un'altra cosa, dalle mie parti si dice... il pesce puzza dalla testa, quindi la colpa è di Moratti. Cioè, questa l'abbiamo sentita. Grazie della difesa d'ufficio, comunque, fratello. Grazie davvero. Allora, ragazzi, Franco Piattanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Direttore! Ma che direttore? Fate i bravi. Domani dalle 5 alle 6, magazine di tutti i convocati, vi aspetto lì. Tutti convocati.